Ciao a tutte e tutti, mi chiamo Anna Luppi e sono un'educatrice e musicista. Il mio lavoro è attualmente in pausa, forzata, perché sono stati annullati i concerti che avevo in programma e per ora rimandati anche tutti i laboratori musicali per l'infanzia che tengo per bambini da 0 a 6 anni e i corsi musicali postparto. Oggi vi leggo un libro edito da Baba Libri di Mireille Dallancé, Banda di maiali. È l'ora della merenda. Papà legge il giornale. Rocco prende uno yogurt e sale sullo sgabello. «Sei pronto, Filippo? Prendilo!» «Smettetela!» grida Carlotta. «Quello è il mio yogurt!» Troppo tardi. Lo yogurt è già in volo e atterra sulla testa di Filippo. Papà alza gli occhi dal suo giornale. «Ma no, Filippo, non è possibile!» Non è colpa mia, dice Filippo. È Rocco che non ha nessuna mira. Papà guarda il tavolo. Un disastro! Allora si alza e grida: pulite tutto immediatamente, banda di maiali! E subito tre maiali guardano papà con gli occhi sgranati. Ops! Esclama papà. Grugniscono i maiali e si precipitano fuori dalla cucina. «Tornate subito qui!» grida papà. I maiali però non lo ascoltano. Scappano in giardino, calpestando l'insalata della signora Gina, la loro vicina. «Oh, la mia insalata fresca! Guardi qua che disastro!» protesta la signora. «Dopo!» dice papà. La signora Gina però gli afferra il maglione. Allora lui le dice: «Lasciami, vecchia capra brontolona!» E subito... «Meh!» protesta la signora Gina. Ma papà è già lontano. Corre dietro i maiali ormai scomparsi nel bosco. I maiali sono contenti. Hanno trovato una bella pozzanghera di fango e non vedono il lupo che li spia nascosto tra i cespugli. E hop! Eccoli prigionieri in un grande sacco. «Fermo lì!» grida papà, che arriva tutto affannato. Il lupo vuole scappare, ma il suo sacco è troppo pesante. Papà lo raggiunge in un balzo e sdeng! Lo colpisce sulla testa. «Ecco fatto», dice papà. «Adesso potete uscire». Ma dentro il sacco non si muove niente. «Rocco? Carlotta? Filippo? Miei cari bambini, rispondetemi!» supplica papà. E subito... «Papà, papà!» esclamano i bambini uscendo sani e salvi dal sacco. «Guardate», dice Filippo, «abbiamo visite». «Meh!» bela la capra. «Oh!» esclama papà, «signora Gina, mia cara vicina!» E subito... «Ah, per questa volta lascio perdere», dice la signora Gina. «La mia insalata però non si raddrizzerà da sola». «Sistemeremo tutto», dice papà. «Rocco e Filippo sono ottimi giardinieri. Noi invece andiamo a pulire la cucina prima che torni mamma». E quando mamma torna a casa, spalanca gli occhi. La cucina non è mai stata così pulita. «Ora ti spiego», dice papà. «Sai, mi sono comportato proprio come un asino». «Papà, no!» esclama Carlotta. «Ma è troppo tardi». «Non ti preoccupare, mamma, possiamo farlo tornare come prima quando vogliamo». «Ah, davvero? È carino però con quelle orecchie grandi. Lo teniamo così?»